Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, buon pomeriggio. Nuovo numero di Strade e Motori che vi farà compagnia fino alle 17. Oggi una puntata molto ricca, parliamo di auto, ma non solo, parliamo anche di moto, perché dobbiamo conoscere tutte le novità del mese di maggio che riguardano il settore delle due ruote. Poi ci occuperemo di un mercato lontano, ma che invece è più vicino di quello che pensiamo, ovvero quello cinese. Ci occuperemo anche di pneumatici, che sono fondamentali per la sicurezza e le prestazioni dei nostri veicoli. Ma partiamo subito presentando una novità nel mondo dei SUV. E allora partiamo proprio dalla novità di mercato più interessante della settimana. Dacia, il marchio romeno di proprietà della Renault, lancia infatti il suo primo SUV, e come da tradizione è una vettura a prezzi particolarmente vantaggiosi, tant'è vero che c'è chi ha parlato di SUV low cost. Si chiama Dacia Duster, sarà lanciato, presentato al pubblico il prossimo fine settimana. Vuole sfidare, in un momento complicato del mercato in questo segmento, vere e proprie corazzate come la Nissan Qashqai, oppure l'X35 di Hyundai, o la Ford Kuga o il Volkswagen Tiguan. Dacia Duster dunque al centro del nostro riflettore. Noi abbiamo il piacere di ospitare il direttore comunicazione e immagine di Renault Italia, Andrea Baracco. Buona domenica Baracco, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a tutti i radioascoltatori. Allora, quali sono le caratteristiche più importanti della Duster? Ma direi che le caratteristiche del veicolo sono innanzitutto di essere disponibile in due versioni, sia con una versione 4x4 sia con una versione 4x2, per soddisfare quindi delle esigenze che possono essere differenti a seconda dei clienti. L'altra caratteristica è di avere due sole motorizzazioni in Italia, quindi è molto semplice, come dire, poter scegliere un motore 1.6 benzina da 110 cavalli e un motore 1.5 gasolio sempre da 110 cavalli, che, come è caratteristica di tutte le vetture Dacia, poter godere di una grande abitabilità a bordo e di un rapporto qualità-prezzo eccezionale. La Duster presenta anche delle versioni di allestimento diverse, no? Che possono in qualche modo creare delle combinazioni interessanti. Anche qui ce le vuole presentare? Certo, parliamo di tre livelli di allestimento, un allestimento, diciamo così, che è denominato Duster, che è l'allestimento base, e poi due livelli di allestimento superiori fino a raggiungere l'allestimento Laureate, che è l'allestimento top, laddove possiamo addirittura arrivare ad accessoriare la vettura anche con interni in pelle e quindi, diciamo, soddisfare anche coloro che desiderano avere un veicolo molto up to date e appariscente. E siamo arrivati al prezzo, che, come dicevamo prima, è sicuramente il punto forte della Duster, anche e soprattutto se si prendono in considerazione i modelli che abbiamo citato prima. La concorrenza presenta prezzi davvero diversi. Quanto costa la Duster nella sua versione base, anche a seconda dei motori, Baracco? Ma diciamo che noi partiamo da un prezzo di 11.900 euro per quanto riguarda la versione base e arriviamo fino a un prezzo di 17.900 euro, cui possono poi essere aggiunti degli eventuali accessori. Arriva, secondo lei, agli utenti il messaggio che low cost non vuol dire meno qualità, meno sicurezza? Ma penso che stia arrivando, anche perché ormai Dacia è una realtà del mercato italiano da ormai 4 anni, abbiamo raggiunto ormai e superato l'1% di quota di mercato, il che, devo dire, è un successo significativo calcolando il breve periodo in cui siamo presenti sul mercato. E come dico sempre, il discorso è che c'è tutta la qualità e l'esperienza di una marca come Renault dietro, con due semplici parole che ci permettono di garantire questo livello di prezzo, che si chiamano design to cost e carryover, e quindi questo ci permette di affrontare, detto in termini molto più semplici, delle economie di scala molto importanti che ci permettono di poter ottenere un veicolo di grande qualità ad un prezzo contenuto. A chi si rivolge Dacia nel presentare la sua Duster? Ma abbiamo visto che, per quanto riguarda la Duster, abbiamo individuato, come dire, due fasce di target. Una è una fascia di target che sono le famiglie che hanno desiderio di avere un mezzo che sia spazioso, capiente e che sia in grado anche di poterle, come dire, fare viaggiare in tutta sicurezza laddove ce ne sia bisogno, su terreni che possono essere innevati oppure coloro che amano una vita all'aria aperta. E un altro target che è un target invece di persone che sono molto dedicate a una vita all'aria aperta, che desiderano poter affrontare questa vita con un mezzo che sia estremamente confortevole e con un costo contenuto per seguire in questo modo i loro hobby. L'offerta della Dacia in questo momento si diversifica nella Logan, poi c'è anche la Sandero, si arricchirà ulteriormente nel giro dei prossimi mesi. Abbiamo letto di un possibile monovolume che dovrebbe essere sviluppato da Dacia in un prossimo futuro. Ma io direi che sicuramente il marchio Dacia sta diventando una vera e propria marca con molti modelli al suo interno, e quindi da questo punto di vista assolutamente nel proseguio del tempo avremo delle ulteriori novità da presentare al mercato. Allora, noi ringraziamo per il suo contributo Andrea Baracco, direttore comunicazione e immagine di Renault Italia, che ci ha aiutato a conoscere meglio il primo SUV low cost, come abbiamo ribattezzato, di Dacia, la Duster. Buona domenica Baracco, a presto. Buona domenica a voi, arrivederci. È appena uscito in edicola il numero di maggio del mensile Motociclismo, vera e propria Bibbia per gli appassionati del settore, parecchie le novità anche questo mese. Noi ne parliamo con il direttore Marco Riccardi. Buona domenica direttore, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. La copertina di Motociclismo di maggio fa venire l'acquolina in bocca, perché è dedicata ad una splendida Yamaha FZ8, il modello di punta della casa del Diapason. Sì, è dedicata a una novità che sarà prestissimo nei negozi, dai concessionari. È una moto di media cilindrata nuda, la categoria delle naked è quella che va per la maggiore oggi, una moto che costa il giusto e che secondo i nostri collaudatori va benissimo, perché c'è un motore eccezionale che ti porta in giro in tutto il mondo veramente. Ecco direttore, in settimana si è parlato molto del disegno di legge sicurezza che è in discussione alle Camere. Ci sono state polemiche, c'erano provvedimenti che erano stati lanciati e poi sono stati ritirati. Facciamo un po' un punto della situazione per quanto riguarda il settore moto. È un provvedimento che vi convince oppure no? No, ovviamente non ci convince, perché fortunatamente è stato ritirato. Era questo provvedimento che praticamente, in base alla potenza del veicolo, ti obbligava a dotarti di certo tipo di abbinamento che ti portava di fatto a non poter più utilizzare la motocicletta oppure lo scooter di grossa cilindrata, ma non di grossa potenza, perché si parlava di 70 cavalli. Dovevi vestirti con la tuta in pelle, con casco integrale, paraschiena, siamo tutti d'accordo, però ti costringeva anche per andare in giro in città a vestirti come un Valentino Rossi. Non che sia sbagliato ovviamente, però è assolutamente anacronistico, insomma, non aveva senso. Però sempre questo decreto che è stato ritirato si dimenticava per esempio degli stivali, cioè potrei andare in giro con l'infradito e nessuno ti diceva niente, no? Per cui meno male che è stato ritirato. Vi aspettate delle novità da questo punto di vista nei prossimi giorni, oppure, come dire, è tutto rinviato alle prossime occasioni dal punto di vista legislativo in materia? Nessuna novità, ma credo che il rinvio ci sia assolutamente. Noi nel nostro piccolo qualcosa facciamo, e da questo numero di Motociclismo lanciamo una campagna a favore dell'uso dell'ABS sulla motocicletta e sullo scooter. Abbiamo cominciato questa informazione di sicurezza con Ducati, ognuno, chi comprerà una nuova Ducati Monster di tutte le cilindrate, avrà come regalo un abbonamento Motociclismo. È un grosso impegno che ci siamo presi noi e Ducati, che vogliamo onorare fino alla fine dell'anno, cioè fino al 31 dicembre. Per noi è un grande passo, forse per tanti può essere un piccolo passo, perché parliamo di, diciamo così, di pochi euro in generale sull'uso sulla motocicletta, però è un impegno che ognuno di noi si è preso, insomma. Ecco direttore, perché l'ABS, che ormai si dà per assodato per quanto riguarda le auto, per le moto invece è ancora così poco diffuso? Ma cioè, prima di tutto c'è questo convincimento che non serve, no? Tanto io sono bravissimo, freno meglio di un pilota della MotoGP, sul bagnato non ho rivali, eccetera. però c'è sempre l'occasione della frenata da panico, c'è sempre comunque quella macchia d'olio che non hai visto, c'è sempre il briciolino dopo all'inizio della primavera, insomma ci sono tutte queste condizioni che ti mettono in condizione di cadere oggettivamente, perché una moto ha un equilibrio abbastanza instabile. Certo. Se hai un dispositivo che ti permette invece di frenare e di star dritto e di scartare magari l'ostacolo che hai davanti perché non hai la ruota bloccata e non cadi, perché no? E pensiamo, probabilmente in futuro l'ABS sarà obbligatorio anche per le moto, come è già successo per le auto. Si va verso questa direzione. Sì, si va in questa direzione. Le aziende vendono sempre di più moto con l'ABS, perché comunque quando tu hai comprato una moto con l'ABS te ne ricomprerai sempre una con l'ABS, perché hai veramente provato cosa vuol dire evitare incidenti e evitare le cadute. Non si torna più indietro. Direttore, no. Diamo un'occhiata sempre nel numero di motociclismo in edicola anche al mondo degli scooter, delle moto da città, chiamiamole così. Presentate un'interessantissima gamma Peugeot. Presentiamo la gamma Peugeot di piccoli scooter tra virgolette, si va da 50 fino a 150, tutti con le motorizzazioni a quattro tempi, che in questo momento è ovviamente la più ecologica che c'è per muoversi al meglio in città. Sono veicoli agili, proprio per definizione lo scooter, ma sono oltremodo con delle ruote alte, per cui anche qua le buche dell'asfalto, il pavé martoriato delle città viene superato con facilità e con tranquillità. È un veicolo che ha sul prezzo giusto, può essere per un po', può andare bene per tutte le tasche, finché ci sono gli incentivi, anzi direi proprio di affrettarsi perché siamo secondo noi gli ultimissimi momenti, diventa anche interessante il prezzo. Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda gli incentivi, ormai le casse statali da questo punto di vista sono vuote. A proposito, una battuta anche su questo, direttore, come valutate la politica degli incentivi? Forse c'è chi ha detto pochi soldi a disposizione, un sistema che è un po', come dire, non ha certamente avvantaggiato né le case né negli utenti che si sono trovati a decidere magari in pochi giorni per l'acquisto di una moto. Sì, oltremodo anche il sistema per ottenere incentivi era molto faraginoso, era molto lungo, era molto burocratico, come tutta la burocrazia che non si approva, no? Certo, se avessi avuto una gru per le edilizie da comprare, di incentivi ne avrei ancora tanti oggi a disposizione. Certo. Dobbiamo comprare moto e scooter, no? No, era veramente un po' d'acqua nel deserto. Grazie allora a Marco Riccardi, direttore di motociclismo, appuntamento in edicola con il numero di maggio. Noi invece, direttore, ci risentiamo tra qualche settimana per conoscere le novità che motociclismo ci proporrà per quanto riguarda giugno. A presto, direttore, buona domenica. Grazie. Strade e motori. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, tra poco cercheremo di scoprire dove va il gigante cinese in questo avvio di 2010, perché proprio oggi termina il Salone dell'Auto di Pechino. Prima però parliamo di pneumatici. Ne abbiamo parlato spesso nei nostri appuntamenti di Strade e Motori e continuiamo ancora una volta a parlare di pneumatici, che riteniamo essere uno tra gli elementi fondamentali per la sicurezza, le prestazioni e la stabilità dei nostri veicoli. Per questo sempre utile tenere sotto controllo il loro perfetto stato di salute. Oggi ci chiediamo un po' dove va la ricerca in questo settore. Lo facciamo incontrando e salutando il numero uno di Continental Italia, che è già in collegamento con noi, il dottor Alessandro De Martino. Buona domenica, De Martino, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a voi e a tutti gli ascoltatori. Spesso sono sottovalutati, no? Quando si parla di pneumatici si tende un po' a sottovalutarne l'importanza, invece non è così, lo dicevamo già in apertura, sono fondamentali per prestazioni, stabilità e sicurezza delle nostre auto e non solo. Sì, parliamo solitamente di pneumatici, ma dovremmo dire tecnologia, perché se guardiamo l'evoluzione di questo strumento negli ultimi 100 o negli ultimi 20 anni, parliamo di veramente un'evoluzione fortissima dal punto di vista della resa, della prestazione e della sicurezza. Oltretutto, quando si parla di pneumatici spesso si pensa a quelli della Formula 1, che però hanno un utilizzo completamente diverso da ciò che utilizziamo tutti i giorni nelle nostre autovetture o nei nostri autoveicoli o autocarri o camion. Quindi è importante capire che c'è un'evoluzione e una differenza tecnologica tra diversi prodotti, ed è importante quindi comprare le gomme giuste per lo scopo che noi dobbiamo utilizzare. È possibile, De Martino, che le gomme facciano risparmiare gli automobilisti, soprattutto per quanto riguarda i consumi? Sicuramente sì. ci sono due aspetti importanti da considerare. Il primo è che ci sono gomme destinate a scopi diversi e quindi, come dicevo prima, è importante sapere quale marca e quale tipo di gomme si monta sulla propria autovettura. Ci sono gomme più o meno adatte a uno scopo o ad un altro. Tra l'altro, uno pneumatico è in realtà un compromesso tra esigenze diverse: lo scarico della potenza, la frenata, la tenuta in curva, la tenuta sul bagnato, magari la tenuta in fuoristrada o la resistenza agli urti. Quindi è importante montare le gomme giuste, e molte gomme oggi sono focalizzate sul risparmio e sul minor consumo di carburante. Ma c'è un'altra cosa importante che possiamo fare tutti i giorni, ed è molto semplicemente di tenere le gomme alla pressione giusta. Non costa nulla, e il decadimento di prestazioni, di sicurezza, di consumo stesso, di usura delle gomme, e quindi l'aumento di consumo di carburante è incredibile anche solo con un 10% di differenza nella pressione rispetto a quella consigliata dal costruttore. Quindi è una cosa che una volta al mese, una volta ogni 2 settimane va fatta sempre: controllare la pressione, controllarla ovviamente a freddo, e già questo aiuta il minor consumo. Dopodiché ci sono marche che si occupano, quelle più famose, quelle più importanti, di costruire prodotti che abbiano anche una bassa resistenza al rotolamento e quindi permettano di consumare meno benzina. Dal punto di vista del prodotto, a che punto è la ricerca di Continental? Continental è un marchio che ha per scelta quello di essere sempre molto avanti sullo sviluppo e sulla ricerca. Riteniamo di essere tra i migliori al mondo. Questa è anche la ragione per cui i costruttori automobilistici ci affidano una quota importante del loro primo equipaggiamento. Lavorare con i costruttori è importante perché le loro esigenze tecniche, le loro necessità, quello che loro ci chiedono di sviluppare, ci permette di essere sempre con il marchio Continental avanti nella tecnologia e di offrire prodotti più nuovi, più innovativi. La caduta delle immatricolazioni che si sta prospettando in questo inizio di 2010 dopo un 2009 positivo, in qualche modo può avere o sta già avendo delle ripercussioni anche per quanto riguarda la vendita di gomme nuove, oppure si vendono ad esempio più gomme ricondizionate? Insomma, qual è la vostra analisi da questo punto di vista? Noi crediamo che il mercato sia piuttosto costante, perché in realtà l'immatricolato nuovo in un paese come l'Italia, che ha un'anzianità media del parco circolante superiore ai 10 anni, sia un paese in cui la quota delle auto nuove pesa poco sul consumo di pneumatici al ricambio. Quindi da un lato continuiamo a lavorare bene con i costruttori. È vero che c'è stato un cambiamento del mix negli ultimi mesi, si vendono meno auto con quei particolari equipaggiamenti quali le auto a gas, a metano, eccetera, ma i volumi non sono molto toccati, soprattutto perché il parco circolante è importante e continua a circolare. Forse la differenza si vedrebbe nei momenti in cui salisse molto il prezzo del carburante e quindi la gente viaggiasse di meno, ecco, allora forse ci sarebbe un impatto, ma in questo momento non lo vediamo assolutamente. Le vetture del terzo millennio, e quindi qui pensiamo ovviamente all'elettrico, sì, monteranno le stesse gomme che montano le vetture alimentate tradizionalmente? Io credo che i tempi di un'ampia diffusione dell'elettrico, anche sulla base di quello che dicono i costruttori, siano piuttosto lunghi e che l'evoluzione tecnologica verterà piuttosto sui temi già oggi esistenti, prima che sull'elettrico, quindi sul fatto di ridurre l'inquinamento nella produzione e nell'utilizzo degli pneumatici e di ulteriormente garantire la sicurezza e l'affidabilità delle vetture in tutte le condizioni. Credo che l'elettrico abbia sì esigenze particolari, ma appunto parliamo oggi di numeri ancora piccoli e soprattutto di velocità non molto sostenute, per cui l'elettrico non è la prima preoccupazione dello sviluppo tecnologico, nel senso che altri passi saranno fatti prima che l'elettrico veramente si sviluppi sul mercato. Allora, noi ringraziamo Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia. Grazie, buon lavoro a voi e buon viaggio a tutti. E dunque è arrivato il momento di parlare un po' di Cina, perché oggi si chiude il Salone dell'Auto di Pechino, il più grande appuntamento dell'anno che riguarda il settore in quel paese. Peraltro proprio il giorno dopo l'apertura della Grande Expo, la grande esposizione universale di Shanghai. Insomma, mercato dell'auto come specchio dell'economia cinese. Ci facciamo aiutare dal direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore. Buona domenica a voi. Anche in Cina si sentono i riflessi della crisi che ha investito il mercato dell'auto in tutto il mondo o no? Assolutamente no, la Cina è l'unico paese che ha il problema di raffreddare il mercato dell'auto e non di incentivarlo, perché già nel 2009 si sono vendute 13 milioni di automobili, quindi molto di più di quante ce ne siano vendute per esempio negli Stati Uniti, è molto vicino al dato di tutta l'Europa messa assieme. E quindi il governo cinese sta pensando di alzare la loro IVA, la tassa sull'acquisto, che al momento è al 7,5%, portarla almeno al 10%, perché altrimenti gli analisti ritengono che questo è un mercato che con questi tassi di crescita, peraltro già confermati anche nel primo trimestre del 2010, potremmo arrivare a un mercato da 30 milioni di macchine all'anno con un parco superiore ai 400 milioni, di un'enormità, con anche problemi rilevanti sotto il piano sia della congestione che poi delle emissioni, perché ovviamente 400 milioni di macchine in più su questo pianeta si risentirebbero. Immaginiamo però che le case costruttrici in questo momento stiano gongolando per questo tipo di trend. Vogliamo ricordare, direttore, quali sono le case produttrici di auto più presenti in Cina, quelle che vendono di più? Allora, intanto i tedeschi stanno salvando i loro bilanci grazie alla Cina, soprattutto le marche premium, e cioè Mercedes, Audi e BMW, vendono in Cina circa 100.000 macchine all'anno, tra l'altro degli ottimi prezzi, e quindi tra i europei assieme ai francesi, soprattutto Citroën, direi che sono i più attivi. Ma gli stessi americani, General Motors per esempio, ha un grande successo in Cina, cosa che non ha più da molti anni in patria, e ha dei marchi tipo Buick che ormai sono abbastanza negletti appunto negli Stati Uniti, mentre in Cina sono considerati dei marchi di grande prestigio. E quindi in Cina, esattamente come in Brasile, non solo si vendono in questo momento molte automobili, ma soprattutto si guadagnano soldi, cosa che in altri paesi invece non avviene. E poi non dimentichiamo che ci sono i costruttori cinesi che stanno crescendo con grandissima rapidità, alcuni di questi sono nati pochi anni or sono, 7-8 anni fa praticamente dal nulla, ma stanno crescendo sia sul mercato interno in maniera rapidissima, sia a livello internazionale anche con delle acquisizioni. Ricordiamo da ultimi il gruppo Geely che ha comprato la Volvo, che è sicuramente uno dei player storici del mercato dell'automobile. Secondo lei è immaginabile vedere nel prossimo futuro auto cinesi in Europa, in Italia in particolare? Ma sicuramente sì, io credo che ci vorranno ancora 5 anni, però se noi guardiamo al 2015 io penso che auto cinesi ce ne saranno, anche se è vero che in questa fase, diciamo in questo decennio, probabilmente i costruttori cinesi saranno molto più impegnati a tenere le posizioni in patria con un mercato che cresce così rapidamente, tra l'altro con i vantaggi che il governo cinese sta dando loro, piuttosto che pensare a esportare. Nel momento in cui il mercato cinese dovesse arrivare a una fase di assestamento, dato che l'industria dell'auto cinese è destinata comunque anche per mission politica a crescere continuamente, io penso che si cercheranno degli sbocchi all'estero, e a quel punto è ovvio che gli Stati Uniti e l'Europa sarebbero i primi bersagli, anche se non dimentichiamo che la Cina è politicamente molto forte in Africa e lì già si vendono le automobili cinesi e stanno crescendo con una certa rapidità accanto a quelle giapponesi e coreane. Bene, noi ringraziamo Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, che ci ha aiutato a capire un po' meglio cosa sta accadendo nell'universo cinese per quanto riguarda il mercato dell'auto. Direttore, buona domenica e alla prossima settimana. Grazie, buona domenica a voi. E siamo arrivati al termine di questo appuntamento di Strade e Motori. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie a Peter Bescapè che ci ha guidato come sempre ultimamente in regia. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, tra poco le notizie del giornale radio delle 17 e poi tutti gli approfondimenti del pomeriggio sportivo di Radio 24 con Carlo Genta. Da Massimo Di Scienza l'augurio di un'ottima settimana a tutti.